Friuli nel mondo, 81esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane del nostro tempo. Il quartetto di Tonin Kuberly, del quale state ascoltando la sigla, esegue per voi, cari amici in ascolto, alcune canzoni friulane che giovani musicisti e parolieri nostrani hanno espresso in questi ultimi tempi e che danno una interpretazione moderna dei sentimenti di nostalgia e di amore che hanno caratterizzato gran parte delle nostre villotte popolari e d'autore. In queste canzoni l'anima della nostra gente, nonostante la modernità dei ritmi e dei motivi, si esprime con la semplicità e con la freschezza tipiche del Friuli. Questa canzone dal titolo Nostalgia di Udine, musica di Sandro Cimiotti, parole e voce di Bruno Marmai, il sentimento della nostalgia è espresso con toni semplici e accorati. Nestre cittadine, oi adesso di un plan, e biele piscinine, la patria di Duci Furlan, e la sua gioventù, e tante plan Udin tu se slatiare dal nestricù, Udin tu se regine dal tuo friù, quanche lontan o sarin vie palmon, il tuo ricuor sempre al sarà profondo. Se biel ci stie la Udin, se gioventù, come te ne strettiare in nessun lu. O cantarin così con passione, te tiare benedette li sos canzon. Mi ha detto la me mamute, se tu la ras lontan, pensa la toccia azute, a Udin e a Duci Furlan. Tu cantaras peso, o in coro plan plan. Thank you. biel ci stie la udin se gioventù. Come te ne strettiare in nessun lu. O cantarin così con passione, le tiare benedette lì canso. Beppino Lodolo canta ora Biel Sozzere, canzone musicata da Luciano Gabrici su versi di Guido Michelutti. Iere bionde che animute che venive su d'està, pare c'è noise, lui vignude, dopo bemi tanzurà. Biel sozzere, pal via, tra la in, che ben, che va. Io col cu, la cir, finché le siu, si piare tal scu. Mi han dit che le han sintude a cantala io sul mar, che la sere le han viotude, spensierade su un tumba. La canzone dal titolo Rosis, musicata da Bruno Degano su versi di Guido Michelutti e cantata da Maria Di Leno. Thank you. la quarta canzone moderna friulana cantata da Beppino Lodolo e Franca Leonarduzzi è stata musicata da Bruno Degano su versi di Giuseppe Degano. Ascoltatela. I tuoi poi quanche mi ciali par che vueli penetra dintel cuor che tante brami di sentilo attribula Nininskai voi, vorreste stessi sempre dongei miei, par me non vedi altri come i tuoi, par me non vedi altri scusi miei. Mi disi tantis robis color muti fevela lor mi disi tu noto crodi che ho vimboe di morosa Dubitiamo che queste canzoni moderne, aderenti allo spirito e alla tradizione melodica del Friuli, abbiano avuto la forza di riportarvi al ricordo del vostro focolare lontano. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 81esima trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari, complesso di Tonin Kuberli.